Remake. Hello everybody, this is Fergal Cavanaugh and you're very welcome to questa edizione di domenica pomeriggio of Remake, dove ascoltiamo vecchi brani e poi in versione nuova col tocco moderno. E oggi, ragazzi, con Michele Tuzzolo on controls avremo una bellissima programma di mixaggi e pure il nostro medley alle 16.30, alle 17.30. E siccome ieri hanno fatto il loro passo più vicino ai mondiali l'Italia, iniziamo con un brano che spesso si sente sui spalti dello stadio. It's Village People with Go West. Remake. Together, we will make the plans. Together. questo è stato un hit per i Pet Shop Boys nel 1993 dal loro album Very, ed è stato preso pure per i spalti di un sacco di stadi in Inghilterra, soprattutto l'Arsenal. E a proposito del calcio, sì, sappiamo dell'Italia e le loro vittorie ieri, però voglio anche dire che l'Irlanda ha pareggiato col Portogallo, e perciò noi ci troviamo a capo del nostro gruppo pure, che è ottimo sopra Portogallo e l'Olanda. Scusate ragazzi, oggi sono felicissimo. Allora, l'originale di questo erano dai Village People dal 1979, un grande disco hit per loro, e do disco a reggae e Bob Marley, and here's I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down ass homie. And the police always trying to pin some bank hits on me. I keep away from fools, they do crime in the track. Cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, me with some hits that I did not do. You know who, the boys in blue. There they go with their assumptions, slavery's over. Let us have something, why you wanna pull me over? Cause I'm bumping, I just made a new song. My profession is music, your profession is protection with cats. Then use it on him when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sales to stuff you in. Did not shoot the deputy. Was the sheriff. I didn't shoot the deputy, I didn't have to, cause in this gang, they always trying to blast you and leave it to the cops to find out who did the murder. They harassed the wrong clan and arrest the wrong man. The homie J-Dawg got stretched, but that's okay, cause I'ma work for life so he can see another day. A homie's a homie, a fake is a snake, straight gang from the pen, from the homie J. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell to stuff you in. Did not shoot the deputy. Album Take a Look Over Your Shoulder, Reality, that's Warren G del 1997, un album che è stato molto un grande successo per lui, però ha preso il spunto dall'originale di Bob Marley del 1973, il grande pezzo I Shot the Sheriff. Allora, piccola pubblicità per noi, torniamo con un po' di disco americano. 1998, sì, questo è l'anno in cui i Cleopatra hanno fatto questo cover, I Want You Back, e col bel mixaggio di Michele on Controls avete sentito prima i Jackson 5, il grande, anzi erano piccoli, però il grande successo per Michael Jackson prima che è diventato solista del 1970, e pensi un po', i loro prime quattro singole sono andate al numero uno in America, I Want You Back ed ABC, che avete sentito in quel medley pure, The Love You Save and I'll Be There, quindi Michael Jackson un successo proprio da bambino, incredibile. You're listening to Remake, tre bel dischi adesso che ascoltate. Iniziamo con Johnny Bristol, il pezzo si intitola Hang On In There Baby. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. I wanna hold you tight. Look, we've almost got it made. Now that we've caressed a kiss so warm and tender, I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. Sweet virgin of the world, we can't help but make it, cause there's true love between us, yeah. So let us touch that cloud that every girl dreams of. caress. A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Eating at you and it's hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Il pezzo si intitola Hang On In There Baby ed è stato un grande grande hit nel 1974 per Johnny Bristol. È una bella storia per Johnny Bristol, era un produttore e autore per Motown Records, era pure sposato con Iris Gordy, mitica del Motown Records, però poi ha deciso di farselo da solo, è fermato con gli MGM, un'altra casa discografica, e ha avuto questo grande hit Hang On In There Baby. Poi abbiamo proposto Gary Barlow, ex Take That, dal suo album Open Road nel 1997, questa bella versione, e queste sono i Curiosity Kill the Cats. Adesso, a proposito di produttore del Motown, here's Quincy Jones. Pista di ballaggio dopo il loro matrimonio, nel giorno del loro matrimonio, e questo è bello perché usa anche un campione del pezzo che abbiamo ascoltato prima, i Far Side, Passing Me By è il nome del brano, del 1992, dal loro primo album, Bizarre Ride 2, The Pharmacide. Comunque un po' di polemica lì perché stanno facendo la causa i Far Side, l'autore di questo brano Jay Swift, perché dice che non ha avuto nessun riconoscimento, che era lui a scrivere, sì che il riconoscimento che il campione è stato usato, però i soldi per questo pezzo non è stato pagato, quindi una causa di 11 milioni di dollari al momento contro i Jodo e Farside, e questi due abbiamo messo insieme noi a un remake questa domenica pomeriggio. Tranquillo però, perché prima abbiamo preceduto con quel disco che da qui è spuntato tutti e due di questi dischi, Quincy Jones with Summer in the City, quando lui era un grande che suonava la tromba prima di diventare un grande che produceva dischi per Michael Jackson eccetera. Allora, grande grande musica da ascoltare ancora. Se vi piace ballare, se siete donna, se siete sopravvivente, questo è per voi. It's Gloria Gaynor and I Will Survive. You're the one who tried to hurt me with goodbye. The guy grumbled.

say you wanna live some, move out into the fast lane. You say you need excitement to make you come alive. Someplace a million miles from the shadows that surround you. You're lost out in the future. Lovers ask no questions, and shadows never fall. Some pilgrim bound for paradise, no compromise. Paradise is here. Is here, that's Cher, dal 1996. Ma qualcuno mi vuole spiegare perché non riesco a riscaldarmi, affezionarmi a questa canzone quanto che l'originale dal album Primitive Dance. It's Paul Brady. Paul Brady, un irlandese, un cantautore che Bob Dylan, tra l'altro, ha detto che è uno dei migliori cantautori che esistono al momento. E lui ha collaborato con Bonnie Raitt e pure con Tina Turner sull'album Private Dancer. E anche l'originale, diciamo, il primo uscito del Tina Turner nel 86 di Tina, l'album Paradise Is Here, Tina Turner. Allora, Paul Brady, grande Paradise Is Here, and sure you're listening to Remake. And now here comes Sting in due versioni diverse, prima con il suo gruppo The Police e poi insieme ad Aswad. E ragazzi, conteggiamo insieme in inglese, quel che viene prima, one, poi two e poi voi. Of us. questo è il gruppo irlandese Therapy, che hanno fatto questo, hanno registrato per un compilation Peace Together, sperando di portare un po' di soldi per il pace in Irlanda. Bravi loro. Prima di quello abbiamo sentito l'autore originale Sting, Do Solo con Oswald, anzi Do Solo con Oswald senza il suo gruppo The Police, con gli Oswald dal 1998, e poi abbiamo aperto con l'originale Sting and The Police dal 1981, il grande pezzo Invisible Sun, scritto a proposito delle guerre nucleari e radiazione, eccetera. Allora, dopo il notiziario, torniamo con un pezzo che abbiamo già messo on I Love America. Remake. Piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Venture highway sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the earth. Venture highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Drive a funky infatti questo è il suo nuovo singolo, si intitola Someone to Call My Lover e sarà sicuramente un grande successo per lei. E lei al base di quel pezzo aveva preso dal pezzo di America, Ventura Highway, dal loro album del 72, Homecoming. You're listening to Remake questa domenica al pomeriggio. On controls Michele Tuzzolo, my name is Fergal Kavanagh, the best of all music, Stevie Wonder. Dal suo migliore periodo come artista, secondo me, è Stevie Wonder. L'album si intitola Songs in the Key of Life del 1976 e questo pezzo si intitola Wish, I Wish. Bello proprio a farci ballare. Allora saluto a chi mi ha scritto sull'SMS 348-661-9461. Ciao ragazzi, sono Lucy e voglio dare questo messaggio al mio amore Sergio 75 di Acciaroli a Salerno. Presto saremo io e te. Allora per voi il remake di I Wish fatto da Will Smith dal suo film dal 99, il film era Wild Wild West e anche il pezzo si intitola così. Wild Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, six gun in this, brother running this, buffalo soldier, look it's like I told you, any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West, rough neck, so go check them on the vibe, watch your step, reflex and get a hold of your side, swallow your pride, don't let your lip react, you don't wanna see my hand where my hip be at, with Artemis from the start of this, running the game, James West, taming the West, so remember the name, now who you gonna call, now who you gonna call, if you ever riff with people wanna bust, break out, before you get bum rushed at the Wild Wild West, when I'm rolling through the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West, this goes, this goes. Once upon a time, crime in the West. Madman lost his damn mind in the West. Love less, kidnapped or dying, nothing less. Now I must put it behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that ripping you did. Front and center, now where you look back, kid? Who that is? A mean brother, bad for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking after, wrong tree we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild. Wild. When I roll into the wild west. When I stroll into the wild west. When I bounce into the wild west. With a pen and a pad, don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 faces and turn just for fun. Sun, up the sundown, rolling around. See where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the wild, wild West. When I roll into the wild, wild West. When I stroll into the wild, wild West. When I bounce into the wild, when I roll into the when I roll into the wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, seriously. What? Trying to have fun no matter what you do. You want to tell me why? Chi può dimenticare il video a questo punto che va vicino e inquadra sua faccia, la faccia di Sinead O'Connor che sta piangendo veramente. Oh, bellissimo questo, un grande hit per lei, l'ha lanciato nel mondo internazionale dal 1990 dall'album I Do Not Want What I Haven't Got, le belle voci irlandesi di Sinead O'Connor. E questo pezzo lei aveva preso da Prince, che avete sentito prima nel sua versione dal vivo che è stato pubblicato sul album The Hits del 93. Dato a Sinead O'Connor e l'avete sentito insieme a Rosie Gaines, bella proprio l'originale pure. E grazie a Manuska che mi ha scritto, lei ha detto sì, gross, thank you very much. Comunque lei mi ha ricordato che qua avrei pure potuto mettere Georgia, è vero, è vero. Comunque siamo arrivati al momento del medley e adesso ascoltiamo Papa Was a Rolling Stone. We'll be right back. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Those that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. You when I did, but who knows the reasons you did what you did. I can't help but to wonder why you live your life as a big fat lie. You act like you had no responsibilities, cause if you did, it's a bet that you wouldn't be stealing, begging, hustling, and scheming. You could've got a job, but did you know the meaning of what? I'm talking about an honest day's pay, but you was too lazy to be that way. Always trying to take the easy route, that's what they tell me, so I don't doubt. In for a moment, not for a sec, because you lacked all your self-respect. But it's too late, for you that is. Tomorrow I'll be going on about my biz. And so it's time to put the past behind, erase the anger, and clear my mind. I wanna forget the little bit I know, and make sure that I never sink so low. Cause I want my kids to grow up and know that I was always there because I loved them so. And that's the least thing that I could do, but that's a lot more than I got from you. It was the 3rd of September. più storico della musica rock and roll. 1972 è stato l'originale, il grande hit, un comeback per i Temptations all'epoca. E poi abbiamo sentito il gruppo del mitico produttore Don Was, cioè Was Not Was, che l'hanno riproposto nel 1990. E questo è George Michael, un bel versione del vivo che ha fatto e ha pure mixato insieme lì Killer di Adamski. Quindi un grande versione per il remake, un grande medley che abbiamo ascoltato. Allora ragazzi, che ne dite? Andiamo un po' in Danimarca? Hi Bobby. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in a Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. Let's go party. Everywhere. go party, come on Bobby, let's go party, come on Bobby, let's go party, make you walk, make you talk, do whatever I please, you can act like a star, you can beg on your knees, come drop in, bimbo friend, let us do it again. Hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can touch, you can play, you can play. If you say, I'm always yours. Bello, bello questo, io lo ritengo proprio un classico questo remake di Barbie Girl. Allora, tutti quanti conosciamo l'originale, quello di Aqua, del gruppo danese che ha fatto un po' di problemi con il Mattel, che creano il Barbie, o la Barbie dovrei dire. Questo dal 97, però poi dalla Svezia, magari un po' di competizione tra una nazione e l'altra in Scandinavia, The Axel Voice Quartet ha fatto questa grande, grande versione. Allora, prima della pubblicità voglio salutare Alice e dire bentornato in Italia. I hope you're doing okay and that you enjoy the music. We'll be back tra pochissimo with Last Night a DJ Saved My Life. They wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky. Move them around from side to side. I got what it takes, the beats, the brace, the funky bass. I take your body crazy, shake, come on. I heard somebody say, what? She's at the party, so out the door, got the keys to your city. Looking kinda pretty, dance till you drop, and it don't stop till it go pop. That's how you wanna dance. Let's all get down while we got the chance. I still got 12 seconds on the clock that's mine, and I ain't gonna stop till the sun don't shine. Line after line, I flow like rhyme after rhyme, just like time after time. Keep it up till you feel the heat and get down once you feel the beat. I heard somebody say she's at the party, so I'm gonna get me some. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Gonna get it on, baby, I want it now, baby. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Move it all around, baby, I want it now, baby. Hey, yo, show me your skill. There ain't a problem that we can't fix, cause we can do it in the mix. Now if your man gives you trouble, we'll be in there on the double. Guaranteed that we'll be hitting for six. Come on, yeah. I heard somebody say she's at the party, so I'm gonna get me some. Over mix show, make a brother feel like I'm down at the disco. And we're gonna keep it going like this though. Cause the DJ grabbed a record by the fistful, by the crateful, and we grateful when you hear the shuffle records that are tasteful. Cause a selection of the records he played to the direction of the record we sway. It don't like through the session we stay. Cause you think you got me feeling. Good God, I be feeling. Took a ceiling when I'm feeling. And I be feeling alright. Don't stop, keep it going down. Favorite song on my stereo, like Macy Gray, Roots, and D'Angelo, Mos Def, Lay, Nubians, and De La Soul. I like them cuts with the soul and original. Never afraid to be creative on your radio. Spin my jam when I'm cruising down the barrio. Turn my audio up, create a party. Hey DJ, would you play my song? And get my rock, get my roll, get my hip hop on and dancing all day, all night. Give me some inside, make me feel out of sight. Got me feeling, got me feeling, got me feeling. Oh shit. Got me wanna get down all night. La Last Night DJ Save My Life, ecco Macy Gray che con sua collaborazione con i Black Eyed Peas ripropone quel pezzo di La In Deep che abbiamo ascoltato. That's a request line, bello. E Last Night DJ Save My Life è stato un grande disco hit per gli In Deep negli anni 80, nell'83, e poi l'hanno riproposto come base per il loro pezzo If You're Getting Down, i Five, sul loro album del 2000 Invincible che abbiamo ascoltato. Pure tre bei pezzi che usano Last Night DJ Save My Life. Comunque avremmo pure potuto scegliere altri pezzi, c'è anche un cover intitolato Last Night DJ Killed My Dog, cioè ha ammazzato mio cane, e c'è anche Last Night DJ Your Wife, una cosa che forse è meglio se non la traduco. Allora adesso arriva un brano da 32 anni fa, Shocking Blue. Name. Grande, grande disco hit per i Bananarama nell'86. Venus, che Bananarama pure avevano Siobhan Fahey, un irlandese, un altro irlandese in questo programma, che è stato sposato con Dave Stewart degli Eurythmics. Prima di quello abbiamo ascoltato l'originale del 1969, erano i Shocking Blue con Venus, bellissimo. E questo pezzo è un pezzo che mi sono trovato dal matrimonio di due amici a cantare sul palco. Non mi è andato bene quanto i Shocking Blue e Bananarama, però Mimmo e Giuliana si sono divertiti almeno. E tra pochissimo, tra un paio di settimane, dovrebbe nascere il loro primo figlio. E quindi, ragazzi, è in bocca al lupo. Oh, siamo arrivati alla conclusione di questo programma. Tra poco arriva Ornello con la classifica. Voglio ringraziare tutti voi che mi avete seguito questo pomeriggio. My name is Fergal Kavna. Voglio ringraziare a Michele Tuzzolo, che è stato proprio mitico con i suoi mixaggi oggi. Io vi do appuntamento la settimana prossima alle 16 per Remake e domani alle ore 21 per I Love America. Buona domenica, ragazzi! Poverino Jeff Buckley, purtroppo è scomparso nel 1997 e ci dispiace per questo, abbiamo perso un grande star. Ragazzi, you're listening to Southside. Purtroppo questa è la terz'ultima edizione che si riprenderà, speriamo, in un'altra forma, però venerdì è l'ultimo, ecco Moby. See myself in the falling home. See the light come over, no. I see myself in the pouring rain.